Nel 2019-2020, quando è nato il Green Deal, sull'onda dei movimenti climatici che infiammavano l'Europa, si è iniziato a lavorare a una tabella dei tempi della riduzione delle emissioni in Europa. C'è un obiettivo, un target finale che è al 2050, sono le zero emissioni nette. E poi ci sono degli obiettivi intermedi, che sono in realtà più importanti, perché la von der Leyen non sarà là al 2050, non potremo chiederle conto di quello che è successo. Invece, gli obiettivi più vicini a noi sono quelli politicamente più rilevanti. C'era fino ad ora il famoso obiettivo del meno 55% delle emissioni al 2030, il famoso Fit for 55, e lo stiamo raggiungendo. Si sta dibattendo da mesi su un altro obiettivo, quello al 2040. E la situazione è la seguente: dal 2019 è cambiato molto dal punto di vista politico, non c'è più quella grande ondata, quella grande spinta per l'ambizione climatica, e viceversa c'è Trump da un lato, l'ascesa delle destre dall'altro, che vogliono frenare. In questo contesto, qual è il compromesso che sembra l'Unione Europea stia trovando? Si fissa un target abbastanza ambizioso, meno 90% delle emissioni al 2040, calcolate rispetto al picco massimo che è stato raggiunto nel 1990, è un buon target, ma i contrari, i refrattari, quelli un pochettino più attaccati al fossile, all'economia tradizionale, per esempio il governo italiano, ma ormai di fatto anche quello francese e tedesco, un po' tutti i pesi massimi dell'Europa, ottengono diverse cose, fra cui questa revisione biennale che permetterà di ridiscutere l'obiettivo tante volte e di cambiare un po' rotta per ammorbidirla e modificarla. Non è una grande notizia per il clima questa revisione biennale. Sembrerebbe che negli ultimi anni l'Unione Europea stia rallentando sul fronte del clima, come hai detto tu, una perdita di entusiasmo e soprattutto di iniziativa perché cambiano gli equilibri politici e soprattutto le priorità europee e mondiali a seconda ovviamente di chi viene eletto, di chi ci governa. Dunque, questo passo indietro, che cosa potrebbe comportare per l'Unione Europea rispetto, agli impegni presi? Ma guarda, la transizione è fatta di tante cose diverse. C'è una parte propositiva che significa costruire l'infrastruttura necessaria alla transizione, penso alle rinnovabili, alle reti, ai treni, all'efficientamento energetico delle case, alle filiere ridotte, eccetera, eccetera. E poi c'è una parte invece di sottrazione, quindi chiudere gli impianti fossili, far sparire le macchine a benzina dalle strade. È chiaro che questa seconda parte è quella che preoccupa di più il mondo, che guarda con ostilità alla transizione. Quali sono i passi indietro che potremmo vedere? Beh, per esempio, sta venendo molto attaccato l'obiettivo dello stop alla vendita delle auto con motore a combustione nel 2035, era uno dei punti chiave del Green Deal, del 50 for 55. Ora si sta iniziando a parlare di smantellarlo. In Unione Europea raramente si smantellano le cose, di solito quando le si vogliono smantellare le si rimandano, ed è quello che potremmo vedere, cioè continuare a rimandare questo target che è già abbastanza lontano. Poi ci sono molti governi che iniziano un po' a frenare sullo sviluppo delle energie rinnovabili, e c'è la questione del fossile. Pensiamo a quante infrastrutture per il gas stanno venendo costruite o progettate in Italia, tra l'altro con abbastanza accordo fra centrodestra e centrosinistra. È chiaro che c'è un clima politico molto favorevole all'espansione del fossile, il contrario di quello che ci servirebbe. Queste mosse, questi passi indietro sono stati sponsorizzati come un elemento di flessibilità affinché l'Europa ponga comunque degli obiettivi, ma che abbia vincoli meno rigidi. Ecco, questa maggiore flessibilità può essere per il breve termine una soluzione, oppure credi che il gioco non valga la candela, cioè che l'Europa come attore nella sostenibilità mondiale dell'ambiente possa perdere credibilità, secondo te? Noi abbiamo la libertà di essere flessibili quanto vogliamo. È chiaro che poi la fisica dell'atmosfera è un pochettino meno flessibile. Più emissioni buttiamo in atmosfera, più saranno gli effetti che vedremo. Penso alle alluvioni che hanno colpito la Romagna in questi ultimi anni, a quella ancora più disastrosa che ha colpito Valencia l'anno scorso, ma anche banalmente alla siccità. Io sono sardo, diciamo tutto il meridione e isole d'Italia sono ormai sistematicamente colpite dalla siccità, che è un enorme problema per il settore agricolo. È una questione di bilanciamento, no? Quanto vogliamo difendere magari gli interessi dell'industria fossile e quanto siamo disposti a sacrificare in termini di industria agricola o di altri settori o di anche insomma vite umane rispetto agli eventi meteorologici estremi. Ecco, credo che la flessibilità vada un pochettino incastrata poi in dei limiti fisici sui quali non possiamo negoziare. Poi c'è un punto economico, c'è questa grande preoccupazione da parte del mondo confindustriale, penso in Italia alla Confindustria, ma anche sui equivalenti europei, che gli obiettivi di riduzione delle emissioni danneggino sostanzialmente l'economia europea. È una visione chiaramente conservativa dello sviluppo economico, perché noi abbiamo dei bastioni su cui siamo forti da sempre e dobbiamo convincere il resto del mondo a continuare a usare quelle robe là, no? L'ENI ha tanti pozzi in giro per il mondo, non vuole rinunciarci, l'industria dell'auto tedesca è molto forte sul motore a combustione, non vuole rinunciarci, ad esempio che se a un certo punto il resto del mondo inizia ad andare verso l'energia rinnovabile o verso le auto elettriche, noi non ci abbiamo più niente da vendere, ma diciamo che per ora con questa strategia conservativa non è che stiamo facendo i miracoli economici. Oltre alle pressioni dell'industria, ci sono anche le pressioni, come dire, relative al settore delle relazioni internazionali. Un po' della ragione per cui stiamo investendo tanto sul gas è anche che abbiamo promesso di comprare tanto gas agli Stati Uniti nella famosa trattativa sui dazi. Questo non ci conviene né dal punto di vista ecologico, è un gas molto inquinante, quello da fracking degli Stati Uniti, né dal punto di vista economico, è un gas molto costoso perché va liquefatto, poi va rigassificato, insomma un'infrastruttura complicata, non c'è un gasdotto. Ecco, questa roba qui viene un po' coperta nel dibattito pubblico da necessità energetico-economiche, ma non è così, è semplicemente una questione di rapporto sfavorevole rispetto agli Stati Uniti.